Siamo in collegamento con Mario Sesti per parlare con lui della sesta edizione di Cinema al Maxi. Mario, ben ritrovato. Grazie a voi ancora una volta della vostra attenzione, della vostra così, attitudine, della vostra perseveranza nei miei confronti. Allora, Mario, per chi è all'ascolto, intanto spieghiamo cos'è il Cinema al Maxi. Sì, Cinema al Maxi è un programma di cinema che si fa in quello che è a tutti gli effetti il più importante museo di arte contemporanea a Roma. Così come accade nei grandi musei di arte contemporanea, il primo è stato il MoMA di New York, c'è naturalmente tra le arti contemporanee anche il cinema. Io sono una persona che ha avuto la fortuna di curare questi programmi appunto per 6 anni. Sono programmi che all'inizio abbiamo sperimentato un po' in tutte le direzioni, con anteprime, incontri, retrospettive. Quest'anno, come dire, è un po' Cinema al Maxi 2.0, nel senso che facciamo un passo in più, c'è un vero e proprio festival che si chiama Extra Doc Festival, un festival del documentario italiano. Ci sono 12 film, si inizia il mercoledì 7 febbraio, uno alle 19, uno alle 21, è un festival orizzontale, 6 mercoledì. C'è una giuria autorevole che è presieduta dal direttore artistico del Maxi, che si chiama Wu Anru, che è uno dei grandi esperti, di storia di arte contemporanea di tutto il mondo, uno dei più importanti, ma ci sono personalità culturali italiane come Cristian Raimo, come Susanna Nicchiarelli, come Elena Radonicic, che è un'attrice piuttosto nota e molto brava, come un intellettuale come Flavia Perina e una scrittrice come Lidia Ravera. E la cosa interessante, secondo me, è che uno sponsor privato ha messo a disposizione 10.000 euro per chi vince il premio tra i film inediti, perché 6 sono anteprime mondiali completamente, 6 invece sono film che si sono messi in luce in grandi competizioni italiane oppure sono addirittura usciti dal cinema. Questo è, diciamo così, ecco, un passo in più che mi piacerebbe poter segnalare al vostro pubblico. Il costo del biglietto è molto moderato, 5 euro. Ci sono anche della possibilità poi di fare una carta con il Maxi, consente anche la possibilità di girare nel museo. E soprattutto, come tu sai benissimo, il documentario italiano è stato forse nelle ultime stagioni, con i film di Rossi, ma anche di Carpignano, di Minervini, ha avuto una rilevanza internazionale, per certi versi forse maggiore addirittura del cinema tradizionale, quindi è un cantiere aperto. Ho fatto i calcoli, per esempio, che tra questi film ci sono quasi 9 registe. Come sai, adesso c'è questo dibattito sulla distribuzione del potere nel mondo del cinema che nasce dagli scandali americani. Avere più della metà degli autori che sono donne, credo che anche da questo punto di vista il documentario sia un mondo, un universo molto interessante. Oltre a tutto questo, c'è anche una retrospettiva su Christopher Nolan, un regista di cui credo avete sentito parlare. Perché? Perché adesso per farvi capire anche al vostro pubblico, no? Siccome c'è una mostra che si chiama Gravity, che tra l'altro sta andando molto bene, dedicata a 100 anni Sì. della relatività, mi hanno chiesto chi è il regista o la tendenza, no? Che potrebbe raccontare, essere l'equivalente. Io ho pensato subito a Nolan perché, come chiunque abbia visto almeno due o tre dei suoi film, sai che il tempo è la sua ossessione, no? Sì. Nel senso che il tempo non è mai lineare nei film di Nolan, c'è sempre una discontinuità, c'è sempre una relatività, no? Per esempio in Dunkerque il tempo di chi sta nella baia è completamente diverso, come durata, no? Dal Sì. tempo di chi sta sull'aeroplano. E ci sono degli incontri, c'è stato un incontro molto bello con Luciano di Cabue, che è stato un po' una apripista, sabato 27 gennaio, anche se per l'appunto in realtà cominciamo proprio da mercoledì 7 febbraio, il festival è proprio. Ce ne sarà un altro il 13 con Gabriele Muccino, e poi alla fine ci sono degli imperdibili, cioè dei film che secondo me il mercato ha un po' trascurato, oppure per qualche ragione non hanno avuto il pubblico che meritavano, e sono Detroit di Kathryn Bigelow, Get Out, Scappa, di cui abbiamo parlato poi, ti ricordi, Sì. la sessione del vostro referendum annuale. C'è Cuori puri di Roberto De Paolis, che è uno dei più per gli esordi italiani degli ultimi anni, secondo me, e anche Good Time, che è un film americano che stava a Cannes, un noir di Benny e Josh Safdie. Un film molto interessante, molto duro, molto particolare, che non ha avuto l'attenzione che meritava, insomma. E quindi, diciamo, l'idea è no? Dico, come si succede, come no? Di creare un'offerta che sia il più diversificata possibile, cercare di declinare il cinema in tutta la sua versatilità e tutta la possibilità di poterne godere, di andare appunto da Muccino fino alla teoria della creatività, cioè c'è il mondo. Pubblico ha risposto sempre meglio delle scorse stagioni e contiamo quest'anno di ottenere la stessa attenzione, lo stesso favore da parte degli spettatori. Mario, il panorama temporale, allora abbiamo una data d'inizio e volevo sapere che durata complessiva avrà e quali saranno i giorni oltre al mercoledì dedicato al documentario. Giustamente, in realtà saranno fondamentalmente il mercoledì, il sabato e la domenica, anche perché, scontavo, è una rimozione corposa, è che c'è poi la domenica, ci sta Alice, il cinema per la famiglia, quindi ci sta anche il cinema per i più piccoli, per modo di dire, il cinema familiare, con delle chicche molto particolari, perché come sai Alice è specializzata nell'animazione di qualità, del cinema per l'infanzia e per i teenager di qualità, e che si svolge per la prima domenica. Fondamentalmente però appunto abbiamo attaccato il 27 gennaio, inizieremo effettivamente il festival il 7 febbraio, ma chiudiamo in realtà a metà aprile, il 14 aprile, con una sempre una cosa legata con Dunkerque, che è l'ultimo film di Nolan che facciamo e che chiude con la fine della retrospettiva tutta la programmazione. Perfetto. A questo punto ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più. Assolutamente, se andate sul sito di Fondazione Cinema per Roma, se andate sul sito del Maxi, trovate tutto quanto il programma e se passate abitate da queste parti, può passare naturalmente anche al Maxi in distribuzione gratuita anche in versione cartacea, però sul Perfetto. web, sia nel sito della Festa del Cinema, Fondazione Cinema Roma, sia nel sito del Maxi, ci sta tutto il programma dettagliato con Benissimo. trame, ore, indicazioni, giudizi e tutto Allora Mario, nel salutarci, ricordi il primo appuntamento del 7? quanto. Sì, il primo appuntamento del 7, per l'appunto abbiamo due film, uno alle 19 e uno alle 21. Il 19, ecco, Ho rubato la marmellata, è un film di Gioia Magrini e Roberto Menti, che è una biografia di Remo Remonti. Ora, persone come me te sanno benissimo chi è Remo Remonti, che è un volto feticcio del cinema italiano tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 90, è stato anche un grande performer, ma è stato anche, come dire, un genius loci di tutto il mondo del teatro, del cinema, spesso nel Maurizio Costanzo Show. La biografia ne ricostruisce il profilo un po' da totem, ma anche la personalità vulcanica e talentuosa. Alle 21, Cinema Grattacielo di Marco Bertocci, un bellissimo film che ha avuto una menzione speciale al Biograph Film Festival, in cui il protagonista, letteralmente il famoso Grattacielo di Rimini, che parla, sul serio, con la voce di Ermanno Cavazzoni, che era il collaboratore di Fellini, che scrisse il racconto da cui è stato tratto poi l'ultimo film, Fellini, La voce della luna. È un film ricchissimo di materiali, perché questo grattacielo, un po' reliquia del miracolo economico, un po' quartiere verticale, sembra un monolite atterrato allo spazio, ed è un modo molto interessante di far capire come il documentario, che dovrebbe essere un cinema non narrativo, in realtà è un cinema che racconta non nella maniera tradizionale, ma con la libertà dell'uso di materiali tecnologici, di capacità di costruire persone che diventano personaggi, ma anche di dar voce per l'appunto agli oggetti, in questo caso l'edificio, che per certi versi può conferisce al cinema una libertà, anche un coraggio, una capacità di sperimentare che il cinema mainstream, soprattutto quello italiano, ultimamente difficilmente adotta con la stessa convinzione. Bene. Allora Mario, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. A presto, quando vuoi. Ciao. Grazie ancora.